Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo, lo dico subito, vedo già molti messaggi, della vicenda del botta e risposta, perché continua il programma di Rai 3 Report e la Consob, o meglio il presidente della Consob Vegas. Ne parleremo subito in apertura, cosa è successo, poi andremo più nel dettaglio. Nell'ultima puntata di Report veniva preso di mira e accusato lo stesso presidente della Consob Vegas, che avrebbe di fatto eliminato alcune importanti tutele a favore di risparmiatori che hanno investito tra l'altro anche nelle quattro banche salvate, le famose banche Etruria, Carichieti, Carifra e Banche Marche. La trasmissione ha mostrato un documento del 2011 in cui veniva disposta l'eliminazione degli scenari probabilistici di rendimento, quindi veniva l'eliminazione degli scenari: hai il 60% di possibilità di perdere l'investimento, hai il 10% di possibilità. Infatti l'indicazione sintetica della possibilità di guadagnare o perdere su un titolo. Secondo l'accusa, diciamo, questo, se fossero stati ancora presenti, avrebbero evitato a molti risparmiatori di comprarsi le obbligazioni subordinate. La Consob ha risposto oggi, ha detto che non ha mai dato indicazioni di alcun tipo, né formali né informali, e tra l'altro prova ne è che il prospetto relativo all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Banca Popolare di Vicenza su alcune polizze assicurative conteneva gli scenari probabilistici. Comunque ne parleremo, perché a questo punto c'è un botta e risposta di cui va dato atto in un giorno, visto che siamo in tema di finanza, in cui la Consob ha dato via libera al prospetto informativo per l'aumento di capitale per Veneto Banca, ma sempre su Veneto Banca il numero uno di Intesa San Paolo, Carlo Messina, ha detto oggi ad Altavilla Vicentina, i soci di Veneto Banca non raggiungeranno il 51% e quindi il fondo Atlante interverrà anche in Veneto Banca, dopo aver già rilevato di fatto la Pop Vicenza, e acquisterà il controllo della banca. Non mi sento di fare previsioni, ha aggiunto Messina, parlando della possibilità di una fusione tra la Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Noi siamo azionisti, ha aggiunto, di Atlante al 20%, e quindi non abbiamo interesse a negoziare con le controparti. Staremo a vedere, perché lì poi la cronaca si inserisce nel racconto di quello che è successo negli anni passati. Parleremo di questo, così come parleremo anche delle dichiarazioni del ministro Padoan, ma anche dei dati che arrivano dall'Istat, nel senso che l'Istat dice la crescita è moderata, fin qua l'avevamo capito anche noi, ma rallenterà nel breve e peggio mi sento. Il principale motore sono i consumi, migliorano gli investimenti, migliora l'occupazione nei servizi, peggiora in altri settori, aumenti delle retribuzioni sono molto limitati. La spesa delle famiglie italiane è cresciuta, ma nell'ultimo mese il clima di fiducia è peggiorato. È cresciuta più 0,3%, però continua a calare la fiducia dei consumatori, un calo che è iniziato a gennaio. Su questi dati si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Non è esattamente una fotografia incoraggiante quella che offre oggi l'Istat con la sua nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. La crescita, questo è in sintesi il messaggio dell'Istat, che già non è particolarmente vigorosa, è destinata addirittura a subire un rallentamento nel breve termine. Vedremo che cosa accadrà, ma d'altra parte bisogna prendere atto che sia la Banca d'Italia, sia il Fondo Monetario, sia qualche giorno fa la Commissione Europea hanno nuovamente rivisto al ribasso le stime di crescita per l'Italia, crescita che nel 2016 toccherà appena l'1, forse l'1,1%. In fondo oggi l'Istat non fa che confermare quanto altri danno ormai per scontato. Che cosa sta accadendo? Beh, l'Istat sottolinea che siamo in presenza di alcuni segnali di debolezza sul fronte della fiducia, dell'attesa delle imprese e delle famiglie e anche un rallentamento degli ordinativi dell'industria. Tutti elementi che suggeriscono una frenata nel ritmo di crescita dell'attività economica appunto nel breve termine. In aggiunta, dati non buoni giungono sia sul fronte dei prezzi con la deflazione che proseguirà nei prossimi mesi, sia per il mercato del lavoro che va meglio rispetto al passato ma non abbastanza da rilanciare davvero l'occupazione. Unica nota che può accendere un lumicino di speranza è il consolidamento del contributo positivo alla crescita del PIL che arriva dalla domanda interna, consumi delle famiglie e investimenti non brillano ma restano almeno in terreno positivo. Una buona notizia, ma è ancora poco per garantire una ripresa più solida. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Così Salvatore Padula, parleremo nel corso del programma anche della Yellen, ossia del numero uno della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, Janet Yellen, che ieri è tornata a parlare di un aumento graduale dei tassi di interesse definendolo appropriato. I salari salgono, il dato sul mercato del lavoro negli Stati Uniti preoccupa, ma appunto i salari salgono. Le hanno chiesto anche di commentare una possibile presidenza di Donald Trump, ha detto: noi siamo concentrati a fare il nostro lavoro, vedremo cosa succederà. E poi invece ha dato un giudizio più esplicito sulla Brexit. Nel caso in cui il referendum sulla Brexit dovesse chiudersi con la vittoria di chi vuole uscire dall'Europa in Gran Bretagna, ci potrebbero essere significative ripercussioni. I dati che commentavamo dell'Istat si inseriscono oggi nel calcolo complessivo fatto da Eurostat del come sono andati i primi tre mesi del 2016 nell'area euro. Più 0,6%, l'Italia cresce la metà della media, più 0,3%. Su base annuale, quindi rispetto al primo trimestre di un anno prima, siamo a 1,7 e 1,8 se la allarghiamo a 28. Comunque, la cosa interessante è che la crescita più forte si è registrata in Romania, più 1,6, Cipro più 0,9, Spagna, Austria, Slovacchia più 0,8, Bulgaria e Germania più 0,7. I cali più sensibili in Ungheria meno 0,8, Grecia meno 0,5, Polonia meno 0,1 e poi l'Italia che sta nel mezzo. Ne parleremo più avanti anche perché è chiaro che tu hai un dato ancora, un apporto positivo sul fronte dei consumi. Hai una preoccupazione forte sull'export perché il rallentamento è in atto, ma soprattutto la cosa che più preoccupa è il calo della fiducia nei consumatori, perché di solito è un dato quasi anticipatore su consumi futuri. E le imprese stesse notano difficoltà anche nel raggiungere, non tutti ci mancherebbe, ma nel raggiungere i fatturati l'anno scorso sui mercati internazionali. Ecco perché la situazione poi rischia di complicarsi ulteriormente. Ma andiamo con ordine, perché visto che parlavamo di Yellen e di mercati, andiamo anche sui mercati di oggi. Più 1,90% Milano, più 1,26 Parigi, più 1,60 Francoforte, più 0,15 Londra, più 0,40 il Dow Jones. Molto forte di nuovo oggi il Banco Popolare, più 7,1 la Popolare di Milano, scusatemi, più 7,1 e il Banco Popolare più 6,16. Molto bene anche il Monte dei Paschi, più 4,90. Poi tra i non bancari, Tenaris più 4,70, Saipem più 4,40, la Pop Emilia Romagna più 4,20, Fiat Chrysler guadagna il 4%, Exor il 3,70, Unicredit il 3,30%. Di negativo c'è veramente poco, pochino. CNH meno 0,87, ieri era cresciuto molto. Italcementi invariata, A2A invariata. Nelle banche, quelle che crescono meno, visto comunque la buona giornata, sono Mediobanca più 1,60%, Intesa San Paolo più 1,80%, Unicredit più 3,3% in recupero oggi. Dicevo che nonostante i dati dell'Istat, il ministro Padoan non stenta fiducia, dice: sono fiducioso, l'Italia va meglio di altri paesi. C'è un indebolimento delle aspettative, aspettiamo i dati definitivi, la ripresa si rafforza, continuerà nei prossimi mesi. Beh, evidentemente ha altre fonti, ministro, rispetto a quello che dice l'Istat, o capisco male io, perché insomma l'Istat, adesso riprendo l'agenzia, dice una crescita moderata che rallenterà nel breve. I mutui ripartono, aggiunge Padoan, è il segnale della svolta, andiamo avanti con un complesso di misure sulla casa messe in campo dal governo per il sostegno delle famiglie e delle imprese e anche per l'accesso al credito alle imprese. La TASI tra qualche giorno si manifesterà visibilmente per la sua assenza nelle tasche degli italiani. E oggi in tema di bonus, detrazioni, quant'altro, faccio notare che nel corso del forum del legno arredo al Sole 24 Ore il sottosegretario allo sviluppo economico Ivan Scalfarotto ha detto che il governo intenderebbe confermare il bonus mobili, visto che il presidente di Federlegno Arredo Snaidro gli ha ricordato come ci siano 10.000 posti di lavoro salvati grazie anche al bonus mobili. Un numero importante, non avrebbe senso non confermarlo. Parleremo più avanti anche dei dati di Federmeccanica, oggi il rapporto nel primo trimestre più 2,4%, ma anche lì in miglioramento i dati, ma difficile, dicono da Federmeccanica, ipotizzare un trend di ripresa duraturo. 349-238-6666 per sms e whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, andiamo al primo tema, ossia il botta e risposta tra quanto sta capitando tra Report, perché Report ha, diciamo, tra virgolette, meritato anche la risposta di Vegas, perché Milena Gabanelli ha detto: caro Presidente, se fosse così, lei dovrebbe dimettersi, perché avrebbe una responsabilità quasi diretta in quello che poi è successo negli scandali bancari. Allora, andiamo sul primo tema. Allora, domenica scorsa Report mostra un documento del 2011 in cui è stata disposta l'eliminazione degli scenari probabilistici di rendimento dai prospetti relativi agli investimenti. Cos'erano questi scenari? Sono quelli che ti dicevano, in maniera molto sintetica, hai il 60% di possibilità di guadagnare, hai il 10% di possibilità di perdere su un titolo. Il fatto di essere sintetici li rendeva anche molto chiari. Questa è l'accusa fatta alla Consob, con l'aggiunta che se fossero rimasti avrebbero potuto salvare molti risparmiatori dall'investimento fatto nelle quattro banche, mi riferisco appunto a Etruria, Carichieti, Cariferrare Banca, Marche. Sentiamo questo passaggio nella trasmissione appunto Report, che ha scatenato poi la bufera sul presidente della Consob, Giuseppe Vegas. La Procura ha chiesto alla Consob se i prospetti informativi di Etruria erano regolari e chiari. La risposta del presidente Vegas è pubblica. I prospetti in questione hanno dato massima evidenza a tutti i fattori di rischio connessi alla complessità degli strumenti e alla situazione in cui versavano le banche. Quindi per Vegas, nelle 100 pagine del prospetto che nessuno legge e pochissimi capiscono, erano indicati tutti i rischi, ma subito dopo dice il contrario. Il prospetto informativo immaginato dal legislatore comunitario non si è dimostrato un mezzo idoneo a fornire una risposta efficace al bisogno di conoscenza. Un eccesso di informazioni equivale quasi sempre a una carenza di informazioni. Infatti basta la semplice paginetta che indica: comprando questo prodotto hai il 50% di probabilità di perdere. Si chiamano scenari probabilistici, tolti proprio da Vegas nel 2011. Li aveva raccomandati il suo predecessore Cardia nel 2009 per tutti i prodotti complessi, comprese le subordinate. Questo meccanismo, un po' difficile se vogliamo, era stato ammesso come facoltativo da Consob nel 2009 e nel 2012 il Parlamento europeo, con un regolamento, ha escluso che si potesse richiedere questo tipo di strumento. Quindi non potevamo richiederlo a nessuno. Come dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta. Questo divieto non è scritto in nessuna norma europea e decine di economisti e giuristi di fama mondiale da 3 anni chiedono alla Consob di ripristinare gli scenari di rischio, ma per Vegas è carta straccia. Una cosa un po' da apprendista stregone. Erano facili, ma in qualche caso credo anche ingannevoli. Ma comunque sono metodi che non sono concordati a livello internazionale e comunque l'Europa non li ha accettati. Non è vero che l'Europa non li ha accettati. Al contrario, dal prossimo gennaio impone 3 pagine sintetiche con la scala di rischio da 1 a 7. Analogo allo scenario che veniva chiesto alle banche dall'ufficio della Consob che Vegas ha smantellato nel 2011. Come dire, non tolgo la norma ma chi la fa applicare, violando la legge Consob che dice il presidente deve fare eseguire le deliberazioni. Allora, la risposta di oggi della Consob del presidente Vegas: non ho mai dato indicazioni di alcun tipo, né formali né informali, affinché gli uffici richiedessero l'eliminazione degli scenari probabilistici dai prospetti informativi qualora fossero stati inclusi volontariamente dalle società, cioè se le società li avevano messi io non ho mai chiesto che li levassero. Prova ne è che il prospetto relativo all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Banca Popolare di Vicenza su alcune polizze assicurative contiene gli scenari probabilistici. Poi continua: la Consob non ha mai abrogato l'obbligo di inserire gli scenari probabilistici per il semplice fatto che non è mai stato introdotto nel livello nazionale e nel livello europeo alcun obbligo di includere nei prospetti questa informativa. E poi continua: il prospetto informativo per la vendita dell'obbligazione di Banca Etruria non poteva contenere gli scenari probabilistici così come previsto dalla norma europea, ma Consob ha fatto comunque mettere in evidenza nelle prime pagine i potenziali rischi dell'investimento. E poi a partire dal 2012 la disciplina europea è cambiata, precisando meglio il contenuto obbligatorio vincolante dei prospetti. In particolare è stato stabilito che le condizioni definitive in cui si descrivono le caratteristiche dei titoli offerti al pubblico possono contenere unicamente le informazioni dettagliate dal regolamento stesso, informazioni che non includono gli scenari probabilistici. Il quadro normativo è di massima armonizzazione, di conseguenza i regolatori nazionali non hanno il potere di imporre l'inserimento in via generale degli scenari nei documenti di offerte, azioni e obbligazioni. Alla luce di ciò, le condizioni definitive relative al prospetto delle obbligazioni subordinate emesse da Banca Etruria nel 2013 non avrebbero potuto includere gli scenari probabilistici. Tuttavia, conclude la Consob Vegas, al fine di tutelare gli investitori, Consob ha fatto evidenziare nelle prime pagine del prospetto il rischio di perdita di capitale investito nelle obbligazioni subordinate. Insomma, per dirla con un linguaggio finanziario, un grandissimo casino. Non si capisce nulla, nel senso che Vegas dice non c'era l'obbligo, questo l'ho capito anch'io. E c'è un regolamento del 2012, ma la diatriba si riferisce al 2011, che in cui l'Unione Europea chiarisce che non può emettere queste indicazioni. Però poi aggiunge sempre Vegas che sulle obbligazioni subordinate di Banca Etruria del 2013 la Consob ha fatto evidenziare nelle prime pagine del prospetto il rischio di perdita del capitale. Insomma, io penso che il problema, come si diceva una volta, sia un altro e stia a monte. Intanto invito e ringrazio per averci raggiunto Fabio Pavesi in collegamento con noi. Fabio, buonasera. Buonasera, grazie a voi. Allora, qui se continuiamo a ragionare solo ed esclusivamente sul report Vegas, secondo me ci infiliamo in un vicolo cieco, perché lui dice non c'era nessun obbligo, lo dicono sì, però te lo chiedono, potevi metterlo volontariamente. Intanto vorrei capire che idea ti sei fatto tu, poi ti dico invece qual è secondo me il tema sullo sfondo. Prego Fabio. Ma sì, è una difesa, devo dire, sul piano oggettivo sembra che formalmente possa avere ragione Vegas, ripeto formalmente. Il fatto che lui dica che hanno evidenziato nella Popolare Etruria che i fattori di rischio, allora quella roba non è solo per l'Etruria, e lì secondo me Vegas scivola un po', perché qualsiasi prospetto informativo nelle prime pagine, qualsiasi operazione, collocamento in borsa, emissione di obbligazioni, prevede che ci sia una parte di sintesi con evidenziati fattori di rischio in grassetto. Questo vale da sempre per qualsiasi prodotto, quindi che lui dica che hanno di fatto imposto a Etruria di evidenziare i fattori di rischio, dice da questo punto di vista una cosa molto debole, perché non ricorda che in realtà vale per tutti, quindi lì non è che la Consob si è attivata, ha fatto banalmente il suo mestiere. Il tema è un altro, allora è vero, i prospetti sono di 100 pagine, tecnicistici, li capiamo a malapena noi cronisti finanziari, figuriamoci il piccolo cliente della banca locale, e quindi tanta carta che poi in realtà non assolve la sua funzione. Quindi prescrizioni formali ci sono, è vero che sui bond subordinati è scritto che si rischia di perdere l'intero capitale, questo è vero, ed è scritto anche in grassetto, però, come dire, anziché dare il foglietto di 3 pagine, come il bugiardino alla farmacia, dove uno ha delle informazioni essenziali sintetiche, queste informazioni si annega nelle 150 pagine, poi voi immaginate se ogni sottoscrittore alla banca deve consigliare le 120 pagine, dove c'è una stamperia intera che lavora per emettere le obbligazioni solo per fare la carta dei prospetti. Quindi sappiamo che in questo paese la forma è rispettata, la sostanza no. Io richiamo un punto che per me è essenziale: la Consob non deve solo prescrivere all'inizio, deve seguire il processo. Cioè io mi chiedo, dov'è la Consob a fine del processo? Cioè non basta solo dire guarda io ti ho avvertito. La Consob, che dovrebbe tutelare i risparmiatori, dovrebbe andare a vedere a valle dove sono finite quelle obbligazioni. Io credo che questo compito non l'abbia mai svolto, tant'è che c'è la responsabilità grave della Consob, secondo me. Nel bilancio 2013 dell'Etruria c'era scritto a chiare lettere, era scritto nel bilancio pubblico, l'ho visto io come giornalista, immagino che la Consob abbia sfogliato il bilancio, c'era scritto che la Banca Etruria rinunciava a piazzare le obbligazioni alla clientela istituzionale, cioè a chi ci capisce, e granularizzava la raccolta presso il pubblico indistinto delle obbligazioni, tra cui le subordinate. Era scritto a chiare lettere nel bilancio della banca come strategia commerciale della banca. Allora, se tu indichi nel bilancio che andrai a vendere le obbligazioni ai piccoli clienti, la Consob sa che il piccolo cliente probabilmente riceverà quelle obbligazioni e ha, siccome è il dovere di andare a valle presso le filiali e vedere dove sono finite quelle obbligazioni, e lì poteva intervenire a interrompere questa catena, cosa che non è accaduta. Quindi la forma è salva, ma la sostanza purtroppo non è mai sufficiente, è molto carente, perché credo che la Consob si limiti a un compito prescrittivo, in realtà dovrebbe andare a vigilare sul territorio su che cosa accade, e lì c'era scritto a chiare lettere che finivano ai piccoli soci. A maggior ragione occorreva andare filiale per filiale o anche solo presso la sede della banca e verificare a chi erano stati venduti, se c'erano dentro degli ottantenni a cui è stata venduta l'obbligazione subordinata, come è accaduto del resto. Allora, d'accordissimo con te che già l'autorità di vigilanza dovrebbe accendere un faro, un campanello, quello che vuole, nel momento in cui una banca, come l'Etruria, dice guarda, noi non diamo queste obbligazioni subordinate agli istituzionali, cioè a chi ci capisce, come dici tu, ma le diamo ai piccoli, ai risparmiatori nostri, ai nostri clienti. Allora, perché? Perché lo fai? Che rischio hai? Attenzione, lo puoi fare, non lo puoi fare, o meglio, se lo fai, metti in guardia. Ma il punto, a mio avviso, ne Fabio, è un altro, e cioè... Quando noi abbiamo analizzato ormai qualche settimana fa la relazione della Consob annuale, così come anche quella, devo dire, del governatore della Banca d'Italia, però restiamo sulla Consob, il passaggio che poi Report ha fatto ascoltare domenica l'avevamo modestamente commentato anche noi, cioè non si può dire da un lato cioè, tutte le missioni fatte sono state fatte secondo norma di legge, e dall'altro dire però questa norma di legge, o meglio le indicazioni previste dalla legge nel prospetto informativo, non servono a niente, tante informazioni equivale a non informazioni. Perché, insomma, delle due l'una, allora o c'è un prospetto informativo e tu dici guardate cari ragazzi, la colpa è anche di chi assume la medicina senza leggersi le istruzioni e le prescrizioni e gli effetti collaterali, oppure dici guarda, è scritto così male o così per esteso, così annegando i rischi, che c'è un rischio troppo alto che qualcuno assuma la medicina senza aver capito gli effetti collaterali. Non puoi tenere, secondo me, le due posizioni. Di questo vorrei parlare Fabio dopo. Cioè, è tutta sulla difensiva, perché secondo me alla fine la debolezza, e dopo il meteo ascolto chiaramente anche te, della Consob e in parte anche della Banca d'Italia, è la premessa: tutto è stato regolare, non abbiamo responsabilità. E da lì poi inizia la fragilità. Dopo, perché se tu non ammetti che qualcosa non ha funzionato con le fregature che sono state rifilate a decine di migliaia di risparmiatori nelle quattro banche, e poi aggiungiamo anche i mancati controlli magari su nel caso lì riguarda più la Banca d'Italia, proprio Vicenza e anche Veneto Banca, con questi porte girevoli di alcuni ex dipendenti della Banca d'Italia che Zonin assumeva, l'abbiamo già raccontata, dopo poco tempo nel suo istituto, beh, se non parti con un po' di autocritica tutto il resto viene meno. Dopo il Met. Focus Economia. Terapia tapioco, prematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Befalina, come antifurto, per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefetture. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapia tapioco. Vabbè, il riferimento al prospetto informativo del mitico Tognazzi, insomma, era il minimo. Fabio Pavesi, il problema non è nelle premesse, cioè poi uno può stare a ragionare, guardate che l'Europa aveva detto di non mettere queste indicazioni sintetiche, quindi, ma noi non abbiamo mai detto di abolirle anche quando facoltative, però... Se tu non ammetti che qualcosa non sta funzionando nel sistema di controllo, non esci. Così la penso io, perlomeno. Prego. Beh, il tema è di fondo, cioè non dimentichiamoci che il risparmiatore italiano è poco alfabetizzato e quindi c'è un'asimmetria informativa forte. Ci si aspetti che un'autorità di controllo tuteli molto il risparmiatore. Allora, io capisco le difese, nel senso che sono difese d'ufficio, molto come dire fuori luogo, perché di fatto se la forma è salva, ripeto, i controlli sono stati fatti, la Banca d'Italia ha sanzionato per tre volte i vari collegi di consiglio di amministrazione della Popolare di Vicenza, e però io mi chiedo alla fine però cos'è successo, che nonostante i richiami abbiamo avuto i fallimenti delle quattro banche, la Vicenza che ha dovuto essere salvata, la Veneto Banca ha dovuto essere salvata. Allora mi chiedo qual è il ruolo di un'autorità di vigilanza che ha uomini, strumenti e mezzi per contrastare appunto questa sorta di asimmetria informativa. Io ricordo un sacco di episodi dove spesso anche i banchieri si facevano beffe. Allora chiedevano un ricambio a Veneto Banca di Vincenzo Consoli. Vincenzo Consoli si dimette da ministro delegato per essere nominato direttore generale una settimana dopo. Si prendevano a beffe di Banca d'Italia. Allora Banca d'Italia dicevano gli strumenti di legge per andare a commissariare una banca così d'amblea, ho bisogno di una procedura, di tempi in cui le violazioni siano ripetute prima di poter intervenire drasticamente. Ecco, forse il Parlamento e il Governo dovrebbero farsi carico di questa situazione, cioè oramai gli scandali sono scoppiati, però deve essere una lezione per il futuro, cioè proprio perché questi scandali dimostrano che sia la Banca d'Italia che Consol non hanno evitato dei bagni di sangue mostruosi. Allora, tra Vicenza, Veneto e le quattro banche salvate sono andate in fumo circa 15 miliardi di euro di ricchezza degli italiani. 10 miliardi le due banche venete, 3 miliardi e 4 tra capitale subordinate e le quattro banche piccoline. Ecco, è una distruzione di valore e di ricchezza finanziaria enorme. La Costituzione nostra preserva il risparmio. Ecco, io mi chiedo, che cosa aspettiamo a cambiare le regole del gioco, a dare più poteri a Banca d'Italia di interdizione, ad esempio, o a suggerire a Consob, facciamo presto questo prospetto semplificato di quattro paginette che deve essere obbligatoriamente messo sul bancone dello sportello. E qui sì, è compito dell'autorità e del governo. Allora c'è chi mi scrive, guardi che attenzione perché col prospetto... Ho perso adesso il messaggio, si rischia di dare un'impressione che quello sia una certezza e non una possibilità. Ho capito, però scusatemi. Eccolo qua, per pietà, gli scenari probabilistici sono pericolosi perché poi il risparmiatore li crede veri e certi anche in futuro. Allora, però, noi non possiamo fare il controllo psichiatrico del risparmiatore. Quello che uno che dice, però, attenzione, c'è scritto che hai il 60% di possibilità di perderle. Bene. Di perdere soldi, oppure che in caso di problemi della banca le tue non sono più garantite. Se poi il risparmiatore pensa che il 10% di possibilità di guadagnare equivalga alla certezza di guadagnare, sono fatti i suoi. Sì. Altro aspetto su cui volevo entrare, Fabio, è il tema si dice attenzione, guardate che i 15 miliardi di cui sopra sono una manovra finanziaria, politicamente pesano molto molto di più di IMU, 80 certo. euro e TASI. Certo, è chiaro, è così. Che poi sono collocati in un'area specifica, quindi quella delle quattro banche piccole e il Tramonte Belluna e Vicenza. No, ma però... vuol dire un crollo della fiducia nel sistema, perché quando ti senti depredato in quel modo la fiducia sparisce per sempre, quindi è un effetto contagio pericolosissimo. Dopodiché c'è chi mi scrive, ma fate i finti tonti, l'imperativo era fregare il cliente perché la banca stava affondando. L'abbiamo capito tutti che si è realizzata sia in Veneto che Banca che in Popolare di Vicenza, diciamo, il cosiddetto trucco dell'aeroplanino. Più mandavano male i conti, più tu aumentavi il valore del titolo e dicevi di comprare, obbligavi a comprare per mantenere artificialmente in vita la banca. Il problema è che questo non può capitare senza che nessuno se ne accorga. Questo è alla fine quello che poi mina la fiducia. Nel frattempo, Fabio, però, come stanno andando? Perché oggi Messina, il numero uno di Intesa San Paolo, ha detto ma dovrà entrare il Fondo Atlante anche in Veneto Banca, non arriveremo al 51%. Come sta andando l'aumento di capitale e che ipotesi si fanno? Perché Atlante a quel punto sarà proprietario sia di Veneto Banca e già lo è della Popolare di Vicenza. Ma dipende da questi soci veneti che a Montebelluna hanno dimostrato di voler credere più che a Vicenza. Lì c'è uno zoccolo di vecchi soci che ha detto no, noi ci crediamo, vogliamo provare a partecipare al rilancio e vogliamo continuare a fare i soci. E bisogna superare la soglia del 25% per costituire un flottante adeguato allo sbarco in borsa. Quindi se ci saranno acquisti da parte di questi imprenditori, da sempre soci storici di Veneto Banca, finirà in modo diverso che a Vicenza, cioè forse si arriverà alla quotazione. Però appunto per ora sono intenzioni, nel senso che non sappiamo se accadrà, ripeto, come Vicenza, per cui alla fine l'interesse in realtà svanirà e quindi Atlante dovrà sobbarcarsi completamente, o se ce la faranno a fare questo zoccolo duro per cui Atlante entrerà di sicuro ma con una quota non del controllo assoluto. Il tema di Atlante, l'ha detto anche Penati, è che ci vorrebbe già un Atlante 2, perché se Atlante finisce le munizioni perché le usa per metà solo per capitalizzare le due banche venete, allora il tema di sofferenza ha bisogno di nuove risorse, e l'ha detto il presidente di Atlante Alessandro Penati, dicendo che vanno divise le due cose, cioè chi investe i soldi in Atlante vuole due fondi diversi, uno che abbia dentro le due banche venete eventualmente, l'altro si occupi solo di sofferenza, non vuole un fondo in cui le carte siano mischiate. Staremo a vedere, nel senso che può anche essere che Montebelluna ce la faccia a quotarsi, perché per il momento i segnali sembrano più promettenti. Non andasse così, il copione è quello di Vicenza, con Atlante al 99% del capitale, controllo assoluto, e forse questa è una soluzione che potrebbe anche aiutare a una soluzione interna, cioè in quel territorio forse due banche così vicine con le stesse caratteristiche sono anche troppe, visto che tutti diciamo sì, che purtroppo avevano le stesse caratteristiche anche nel fregare i clienti, sì, appunto, nel senso, sì, appunto, forse, però forse si solo... spera che le caratteristiche buone con la nuova gestione di Atlante possano magari mettere di nuovo insieme la banca, ristrutturarla quantomeno. Lì c'è ancora da smaltire crediti malati che valgono quasi un quarto del portafoglio crediti per entrambe, sono situazioni ancora malate, non dimentichiamocelo. Grazie a Fabio Pavesi del Sole 24 Ore. Allora, continua a scrivermi un ascoltatore, anzi di più di un ascoltatore, ma insomma come si può valutare se un titolo ha il 60 o il 50 o il 30% di probabilità di guadagnare o perdere, sulla base di cosa? Altri mi scrivono, ma oggi magari è il 60 ma domani la probabilità cambia. Allora, o decidiamo che non scriviamo niente, allora torniamo al punto di prima, o decidiamo che almeno a livello prospettico e molto sintetico uno dia un'indicazione, guarda che è un titolo particolarmente rischioso, oppure guarda che il rischio è più basso, da qualche parte la devi prendere. Poi sono d'accordo con chi mi dice e scrive, ma se tu poi non fai i controlli, ma guarda che sulla Vicenza noi abbiamo raccontato di tutto, il procuratore, il capo della procura Schiavon, che poi va, riceve dei regali, si arrabbia, scrive non mi interessa, anche il capo della locale guardia di finanza a un certo momento viene, torneremo venerdì a raccontare queste cose. Però il problema era sicuramente anche dei rapporti con i poteri del territorio e con le istituzioni del territorio, dove erano le procure, dove era la Guardia di Finanza, come mai alcuni ex importanti funzionari della Banca d'Italia poi finivano a lavorare lì. Per cui è chiaro che non basta il prospetto, ma occorre una vigilanza seria. Sono d'accordo con chi lo scrive e sono d'accordo che obiettivamente è insopportabile sentire la Banca d'Italia e la Consob, nonostante quello che è successo con queste sei banche in tutto, vi potrei aggiungere anche qualcun'altra, noi abbiamo fatto quello che potevamo, deve cambiare la legge, non abbiamo responsabilità. Troppo comodo così. Comunque, traffico. Focus Economia. Allora, mi scrivono a quest'ora molti bancari, sono in ascolto, mi stanno scrivendo, ma guardi che l'ordine era di collocare i prodotti più a rischio tossici, dov'è che se non lo piazzavi venivi rimosso e prepensionato, e addirittura un altro mi scrive, ma guardi che il problema è che se io scrivo che il titolo è rischioso equivale a non piazzarlo, come faccio a dire signora compri questo prosciutto ma tenga presente che è rischioso? Ho capito, allora cosa facciamo? Piazziamo tutto come non rischioso? Oppure decidiamo, come scrivono altri, che alcuni strumenti non vanno piazzati nella clientela? Poteva anche essere questo. Cioè, quando tu vedi che una banca decide di non piazzare un'obbligazione subordinata agli istituzionali, ma solo alla clientela, il sospetto che tu stia rifilando al giapponese, o il massimo rispetto per i giapponesi, al turista di turno, la parte cattiva, e al buon gustavo gli lasci quella buona, viene. Questo è il problema. Oddio. Il problema siete voi giornalisti italiani, i più inutili e squalificati del mondo, che non vi accorgete mai di nulla e non prevenite mai nulla. Vabbè, può essere. Infatti adesso mi rivolgo a un giornalista che, diciamo, è italiano solo di nome, ma vive a New York da sempre, quindi non lo riguarda questo commento. Mario Platero in collegamento da New York, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera. Sentirai un po' di rumore di sottofondo perché mi avete trovato per strada su Park Avenue a New York, quindi se ci sono rumori mi scuso con te, con gli ascoltatori. Ma che rumori deve fare Park Avenue, al di là del fatto che è una bellissima via, cioè di peggio, potevamo trovarti a Mestre, potevamo trovarti nella tangenziale di Mestre e lì i rumori li sentivamo. Comunque, Mario, la Yellen ieri ha detto, insomma, a questo punto la Yellen è il numero uno della Federal Reserve, quindi la banca centrale americana, ha detto attenzione, insomma, con questi dati su occupazione e redditi l'aumento graduale dei tassi sarà appropriato, e mi sembra che lo compirà a sto punto sicuramente prima della grande tornata elettorale americana. Ha anche detto che lei è concentrata a fare il suo lavoro, vedremo cosa succederà, ma nel giorno in cui la Clinton finalmente diventa la prima candidata donna a correre per la Casa Bianca, insomma, la Fed veramente è ininfluente nella campagna elettorale? Guarda, direi che hai toccato il tasto forse più delicato in questo momento, perché in realtà una manovra della Fed adesso al 14-15 giugno non avrebbe avuto davvero un impatto tecnico rilevante, perché si parlava di un aumento di un quarto di punto da una banda dello 0,25, 0,50, 0,50, 0,75, e quindi ho parlato con degli operatori, anzi un gestore anche molto importante che gestisce 40 miliardi, e diciamo, insomma, dal punto di vista dell'impatto è soltanto una cosa psicologica, può essere a breve, ma non ha davvero un impatto forte. E allora ecco che interviene l'equazione politica, perché questi 38.000 nuovi salariati dipendenti contro i 170.000 è quello che ha preoccupato molto, diciamo, la Fed, almeno sulla carta, è un dato temporaneo, si pensa che cambierà, la Fed ha una visibilità statistica e tecnica molto approfondita, lei soprattutto, la Yellen, conosce bene i dati e sa come interpretarli, era proprio una sua specialità economica, e dunque l'idea è che l'economia continuerà a crescere, avremo un tasso del 2%, cioè non è cambiato granché con questo dato. Allora come mai la Fed, che dice sì dobbiamo aumentare forse già a giugno, forse a luglio, improvvisamente per un unico dato nota che i consumi vanno bene, i consumi sono il 70% dell'economia americana, per un unico dato giudicato temporaneo decide di rimandare. E qui, come tu giustamente osservavi, interviene l'equazione politica, perché se ci fosse una crisi finanziaria, un aggiustamento di mercato, insomma ci stiamo avvicinando molto a ridosso delle elezioni, e quindi è più prudente per la Fed spostare il tutto a settembre, perché sennò rischia di venire coinvolta in, metti che succeda qualcosa, in una situazione problematica. Quindi secondo me la questione politica interna gioca, e secondo me gioca anche la questione del Brexit, cioè la Federal Reserve è preoccupata da Brexit, teme che se ci sarà un esito negativo i mercati possano reagire male, dunque meglio avere cartucce che, diciamo, che dare messaggi che possono portare effetti moltiplicatori al messaggio negativo di un eventuale Brexit, che peraltro, insomma, molti sono ottimisti sul fatto che poi alla fine non si materializzerà. Allora, sì, chiarissimo il tuo ragionamento, perché da un lato se la Yellen dovesse alzare i tassi e questo creasse, come abbiamo visto nel passato, tensioni sul mercato, sulla borsa, magari anche in concomitanza di una non di un qualcosa che non ci possiamo augurare, cioè che la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea, verrebbe accusata di avere fatto peggiorare in campagna elettorale lo scenario economico, magari Trump potrebbe dire in questo modo avvantaggia la Clinton, o la Clinton potrebbe dire in questo modo avvantaggia il populismo di Trump. Fatto sta che, ho ben capito il tuo ragionamento, da un lato si tiene qualche cartuccia in caso di vittoria del sì alla Brexit, dall'altro farà l'aumento dei tassi quando a quel punto non potranno più essere le conseguenze di questo aumento lette in chiave politica. Lasciamo Mario Pratero sulla Park Avenue, e beato lui. Noi invece andiamo sul GR24 e poi torniamo per parlare di borsa, più 2%, buona la chiusura oggi a Milano, e dei dati, ahimè, non buoni, di prospettiva sul PIL e sull'economia italiana diffusi oggi dall'Istat. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Mi scrive un ascoltatore, tornando al tema delle banche e delle informazioni: quando vai al casinò non trovi scritto quanto puoi perdere. Ecco, questo è il problema, che quello si chiama casinò, quelle si chiamano e si chiamavano banche, e la Costituzione tutela il risparmio, non il gioco d'azzardo, abbia pazienza Silvano. Per cui, no? E quindi se poi vuole dire che le banche sono come il casinò, in quei casi, ma non è previsto dalla legge. Dai, GR24. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo la borsa e poi passiamo ai dati o alle previsioni dell'Istat. Buona la giornata in particolar modo a Milano, più 2%, Parigi più 1,20%, Francoforte più 1,60%, Londra più 0,18%, il Dow Jones più 0,40% in questo momento, euro su dollaro a 1,13%, nel giorno in cui il petrolio è tornato a quota $50 al barile. Ma vanno particolarmente bene le uniche due banche in questo momento in procinto di fusione: Pop Milano più 7,60 e Banco Popolare più 6,10. Saipem più 5,60, bene anche il Monte dei Paschi più 5,20. Tenaris più 5, Pop Emilia Romagna più 4,60, Fiat Chrysler più 4,20, UbiBanca più 4, Exor più 3,5, UniCredit più 3,3, ST Microelectronics più 3%. Di negativo c'è CNH Industrial, che subisce qualche realizzo dopo il forte rialzo di ieri, perde lo 0,80, A2A meno 0,60%. Allora, Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, Banca Popolare è sotto aumento di capitale e trascina anche comunque la Popolare di Milano, eh? Sì, assolutamente, stiamo vedendo in queste due sedute che sia i diritti per sottoscrivere l'azione, l'aumento di capitale del Banco Popolare, sia il titolo sono ben comprati dal, diciamo, dai valori di riferimento che sono quelli della chiusura di venerdì scorso, prima dell'avvio dell'aumento di capitale, l'insieme di diritto e azione ha guadagnato il 18% per il Banco Popolare. È vero che veniamo da un mese particolarmente pesante per il titolo, circa il 40% perso nel mese di maggio, e l'effetto, come tu ricordavi, si fa sentire anche sulla Popolare di Milano, che visto il progetto di quotazione ormai in addirittura d'arrivo, insomma dopo l'estate, tra i due gruppi, e con l'aumento che è chiaramente funzionale a questo progetto. Ancora il greggio, dicevamo, sopra i $50, vicino ai $50, Saipem più 5,60, anche Eni è andata bene, no? Sì, buone giornate di recupero per il settore. Per quanto riguarda Saipem abbiamo anche l'annuncio di un contratto in Arabia Saudita, non di grandi dimensioni, stiamo parlando di 180 milioni di euro, ma che portano il portafoglio ordini dall'inizio dell'anno a 2,8 miliardi, quindi è un'indicazione positiva per gli operatori, nuovi ordini per Saipem. Eni, che guadagna oltre il 2%, qui è l'effetto petrolio, che si fa sentire ancora anche su Tenaris, visto che venerdì dagli Stati Uniti e dal Canada erano arrivati i primi segnali di inversione di tendenza per quanto riguarda le attività di perforazione petrolifere, con le statistiche sulle trivelle attive settimanalmente che avevano segnato un piccolo segnale di incremento, e Tenaris solitamente è sensibile a questi dati perché segnalano una ripresa dell'attività di perforazione. Ancora tra i titoli, bene anche il risparmio gestito oggi, ci troviamo alcuni titoli, il lusso Moncler più 2,60%, Yoox Net-a-Porter più 2,50%. Per quello che riguarda invece, mi chiedete di Finmeccanica, Leonardo Finmeccanica più 1,70% come Luxottica, banche che sono cresciute meno di altre, Intesa San Paolo più 1,70% e se vogliamo anche Finecobank più 0,80%. Tra i migliori e peggiori invece continua a soffrire Acea, la cito, la municipalità di Roma meno 3%, perché qui continuano a pesare sul titolo il risultato del primo tornata di amministrative a Roma. Il responso degli operatori e del mercato già da ieri mattina è stato abbastanza chiaro: la prospettiva di un sindaco a Roma, espressione del Movimento 5 Stelle, con le dichiarazioni che sono state fatte in campagna elettorale sul possibile cambio dell'amministratore delegato, su un cambio di strategie per quanto riguarda l'acqua e la raccolta dei rifiuti, ha creato una situazione di incertezza, e il titolo in due sedute ha perso il 6%, oggi ha perso il 3%, già ieri aveva perso una percentuale simile, quindi attenzione, probabilmente volatilità fino al ballottaggio del 19 giugno per capire se questa incertezza potrebbe tramutarsi in strategie diverse. Sì, anche qui, prima che qualcuno mi scriva, uno può leggerlo in maniera positiva e in maniera negativa, anche perché insomma che nelle municipalizzate romane non solo, non tanto la CEA ma soprattutto l'ATAC vada rimessa a mano e vada rifatta una rivoluzione vera e propria, lo raccontiamo da mesi, quindi non è un giudizio negativo sull'ipotesi della Raggi, non ci permetteremo mai, ma è la spiegazione del perché il titolo CEA perde il 3%. Tra i titoli comunque migliori e peggiori, industria e innovazione meno 12%, Gambro Rosso meno 4,20 e appunto SEAT pagine gialle meno 3,85. Il fronte opposto vede in assoluto i due titoli, la Pop Milano e il Banco Popolare, essere i migliori del mercato, poi la Popolare di Sondrio più 5,98% e la Popolare di Emilia Romagna più 4,66%. Molto bene oggi anche Fiera Milano, che ha guadagnato il 5,34%, mi richiedete dell'euro su dollaro, ve lo ridò, è a 1,13,51. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Allora, dopo il traffico, ieri è stata la Banca d'Italia che ha rivisto a ribasso le stime per il 2016 e per il 2017, portando la crescita economica italiana dall'1,4% all'1,1% quest'anno e dall'1,5% l'anno prossimo all'1,2%. Ricordo che le precedenti stime erano di gennaio, ma questi ritocchi si allineano a quelli effettuati dai principali istituti internazionali a partire dal Fondo Monetario Internazionale, che aveva fatto scendere appunto le previsioni sull'Italia all'1%. La Banca d'Italia ieri ha spiegato che questa riduzione delle previsioni e delle aspettative di crescita, queste riduzioni sono dovute principalmente a fattori esterni, quindi rallentamento dell'economia e del nostro export. Oggi è arrivata invece l'Istat, che parla di una crescita che la frase è abbastanza interessante da leggere tra le righe. La crescita è moderata, l'economia italiana continuerà a crescere con un ritmo moderato, ma rallenterà nel breve. Il principale motore di questa crescita restano i consumi, migliorano gli investimenti, migliora l'occupazione nel settore dei servizi, invece peggiora in altri settori, cresce la spesa delle famiglie, ma peggiora la fiducia delle famiglie stesse. Nel senso che nei primi tre mesi del 2016 la spesa delle famiglie italiane è cresciuta come nell'ultimo trimestre del 2015, più 0,3%. Gli aumenti più rilevanti si sono avuti in beni non durevoli, più 0,7%, e anche mentre più 0,5% hanno fatto i beni durevoli, più deboli le spese per servizi. Ma il problema è che è in calo anche a maggio, come già da gennaio, la fiducia dei consumatori. Nell'ultimo mese risulta un impeggioramento delle valutazioni dei consumatori sul clima economico e, in maniera più lieve però, sul clima futuro. A fronte di tutto questo, il ministro Padoan ha detto continuo ad essere fiducioso, l'Italia va meglio di altri paesi. È un indebolimento delle aspettative di crescita, vediamo i dati definitivi. Io continuo a essere fiducioso che l'Italia va meglio di altre economie, comprese quelle della zona euro, in un'economia globale che stenta un po'. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. I just hope in the money, money, money, money, money. Love me, honey. I just hope in the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. Allora, ha continuato il ministro Padoan, la ripresa si rafforza, continuerà nei prossimi mesi, i mutui ripartono, è un segnale di svolta e il governo va avanti con un insieme di misure sulla casa messe in campo con una triplice valenza: sostegno alle famiglie, la ripresa del settore edilizio e della filiera produttiva del settore casa. La TASI tra qualche giorno si manifesterà visibilmente per la sua assenza nelle tasche degli italiani. Il mattone si conferma in cima alle priorità degli italiani. Le detrazioni fiscali a favore della casa nella dichiarazione dei redditi sono ammontate a 5,8 miliardi di euro e hanno riguardato 11 milioni di beneficiari. E già anticipavamo il fatto che è intenzione del governo confermare il bonus mobili. L'ho detto oggi il sottosegretario allo sviluppo economico Ivan Scalfarotto al Sole 24 Ore durante il forum del Legno Arredo, ricordando che, come aveva già sottolineato il presidente di Federlegno Arredo, Roberto Snaidero, che il bonus mobili ha salvato 10.000 posti di lavoro. Parlato oggi anche il presidente Confindustria Vincenzo Boccia, che ha detto c'è un'inversione di tendenza, non possiamo chiamarla però ripresa, e da qui a ritornare ai livelli pre-recessione del 2008 ce ne vuole. Ha parlato a maggio nell'assemblea degli assocalzaturieri ad Arese. Si è tenuta oggi anche la 138esima indagine congiunturale presentata da Federmeccanica. Produzione nei primi tre mesi più 2,4%, ma difficile ipotizzare un trend di ripresa duraturo, quindi tutto un dato in chiaroscuro, come ha ricordato il vicepresidente Federmeccanica Alberto Dal Poz al nostro Vincenzo Miglietta. Questa congiuntura continua a mostrare luci ed ombre che caratterizzano purtroppo e per fortuna dei comparti molto importanti della nostra industria. Se abbiamo di fronte dei dati positivi per quanto riguarda la ripresa dei volumi produttivi in filiere importanti come l'automotive, permangono delle grandi difficoltà nei prodotti, nella metallurgia, nella produzione di acciaio, tutta la metalmeccanica connessa col settore delle costruzioni. Il che significa che, se è vero che si sta riprendendo una parte anche importante della produzione nazionale, è però vero che continua a rimanere indietro una fetta molto importante della manifattura metalmeccanica, e non possiamo abbassare l'attenzione da questo punto di vista. Allora, sì, anche l'industria, ricordo che l'industria metalmeccanica è una delle industrie portanti del nostro paese. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'economista Francesco Daveri, che insegna politica economica alla Cattolica di Piacenza. Buonasera, professore. Buonasera. Io devo dire che ho un po' di difficoltà, nel senso che ce l'ha anche la nostra ripresa. Qui, insomma, io capisco i distinguo, le sfumature, e non solo quelle di grigio. Però come faccio a tenere assieme un Istat che dice attenzione, la crescita è moderata ma rallenterà, con un ministro Padoan che dice la ripresa si rafforza, continuerà nei prossimi mesi, l'Italia è meglio di altri? Ma in effetti si fa un po' fatica, in pratica io faccio anche fatica a vedere in che senso si possa dire che l'Italia sta crescendo più degli altri, perché i numeri dicono che grosso modo adesso stiamo facendo circa l'1% su base annua, e però se uno guarda in giro nell'Eurozona la Germania fa 1,6, la Francia 1,4, la Spagna fa 3,5, insomma francamente non vedo questa più rapida dinamica. Sono un po' più dati che ha dato Eurostat oggi, quindi questi numeri portati da Padoan forse rispecchiano altri andamenti più di breve che magari ha sott'occhio il ministro, però sono un po' in contrasto con quello che invece l'Istat dice, cioè l'Istat dice siamo qua nel secondo trimestre e c'è qualche evidenza invece di rallentamento, e l'unica spiegazione che posso darmi è che qualche volta in effetti gli indicatori più mensili, no? Cioè come gli ordini piuttosto che i dati sulla fiducia dei consumatori e delle imprese, hanno un legame che è un po' erratico con le variabili che poi ci interessano davvero, come PIL e produzione industriale. Quindi la nostra speranza cos'è? È che l'Istat si sbagli un po', o perlomeno registri gli indicatori che ci racconta, però poi questi indicatori non sono dei buoni previsori di ciò che succede veramente al PIL. E quindi, siccome in passato in effetti è già successo, per esempio alla fine del 2013, che questi indicatori dicessero la ripresa sta arrivando nel 2014, poi non abbiamo visto niente. Quindi può essere che il ministro Padoan abbia, non so, i suoi economisti al Ministero dell'Economia che fanno delle stime che sono più ottimistiche, però dovrebbe farcele vedere allora, se ecco, sono così. Per far capire a tutti però, perché insomma abbiamo detto, e l'abbiamo detto in tempi non sospetti, attenzione, c'è un rallentamento delle economie consumatrici, in questo caso non esportatrici, dei cosiddetti BRICS, e questo lo sappiamo, e quindi Cina, Brasile in recessione e quant'altro, però che cos'è che sta facendo peggiorare o comunque rendere meno forte lo scenario rispetto a prima? Perché il rallentamento cinese, la recessione brasiliana, anche quella russa, li raccontiamo da fine 2015, inizio 2016. Ma effettivamente diciamo, lo scenario mondiale peggiora perché non è che siano arrivate le grandi notizie particolari per noi continua a pesare la Russia, continua a pesare il basso prezzo del petrolio che fa comperare di meno a paesi un po' strani come gli Emirati Arabi Uniti, che però per le nostre esportazioni non sono proprio zero, per i nostri distretti che vendono appunto il lusso accessibile piuttosto che anche i macchinari che servono poi per il settore petrolifero e così via, quindi il rallentamento delle nostre esportazioni viene da queste esportazioni extraeuropee o meglio extra UE, mentre quelle che vanno nella UE grosso modo continuano ad andare bene, perché abbiamo intorno paesi che crescono piuttosto bene, tipo comunque meglio di noi, Germania, Francia, Spagna ancora di più, Regno Unito finché non sappiamo della Brexit, vabbè, lì c'è un grosso punto di domanda, però tendenzialmente per il momento lo scenario europeo non è una buona, cioè ci dice che le cose stanno andando abbastanza bene, quindi le nostre esportazioni lì dovrebbero andare bene, le esportazioni in America vanno abbastanza bene. L'unica spiegazione è questo elemento un po' di inquietudine che porta a consumare di meno, perché oltre ai dati che vediamo temiamo che qualche cosa di peggio possa arrivare. Leggi, si può pensare alla Brexit, piuttosto che a i dati sulle banche, che non sono privi di inquietudine da tutte le parti, insomma non solo in Italia, dove abbiamo certamente problemi molto più spiccati che in altri paesi in questo periodo. Ecco, un'ultima domanda però, Daveri, ma che cosa potrebbe fare, adesso onestamente al di là delle polemiche politiche, sono amministrative, non me ne frega nulla oggi, ma che cosa dovrebbe fare il governo? Noi abbiamo detto più volte, attenzione, è il momento di puntare, di liberare risorse sulla tassazione diretta ai fattori produttivi, quindi lavoratori e imprese. L'Europa ci ha dato un po' di flessibilità, ma per carità, meglio averla che non averla, ma mi sembra che poi sul piano Juncker siamo ancora, nonostante le varie dichiarazioni, siamo ancora alle briciole. Ma che cosa potrebbe fare concretamente? Perché quando parliamo di rallentamento cinese, indiano, recessione in Brasile, adesso è difficile che non solo il governo italiano ma l'Europa stessa possa rispondere sul fronte export. Quindi? Beh, insomma, una cosa che deve non fare il governo italiano è di non mollare sulle riforme. Qui c'entra un po' le elezioni e i risultati, no? Nel senso che sembrano segnalare che il consenso per queste riforme non è che sia proprio granitico, e perché forse sono anche non capite o non se ne vedono gli effetti, e anche una parte di queste non sono state approvate. Però l'Europa ci dà uno 0, qualche cosa per queste riforme, cioè ci consente di fare un po' più di deficit, cioè di dare un po' più di fiato alla nostra economia fin tanto che andiamo avanti a fare queste riforme. Se smettessimo di fare le riforme, addio flessibilità. Quindi la prima cosa da fare è continuare con queste riforme e magari completare quelle che non sono state completate. Pubblica amministrazione, poi le cose, riforma del diritto fallimentare, che è una legge delega che però insomma non sta andando avanti. E quindi queste sono altre cose che sono molto più pratiche delle riforme istituzionali, hanno effetti sull'economia, e che però sono rimaste un po' in mezzo al guado per troppo tempo. Ecco, questo mi sembra che sia una cosa che possiamo fare. Se facciamo questo, poi ci si libera qualche risorsa in più per poter tagliare le tasse un po' di più, e così insomma guadagnarci qualche spazio per il bilancio pubblico, altrimenti effettivamente non c'è molto da fare. Sì, e aggiornarci anche sugli andamenti, non creare false promesse su questo. Comunque io sono d'accordo che tanto se ti limiti a guardare i dati congiunturali mese per mese, ormai la cosa è chiara, c'è una leggera ripresa ma non sufficiente, è molto molto fragile, per cui attenzione anche all'eccesso di entusiasmo, che poi te lo devi rimangiare. Grazie intanto a... vedo molti messaggi, non posso rispondere adesso però su questo, onestamente della... così contraddizione tra dichiarazione dell'Istat e dichiarazione del ministro Padoan, abbiamo già detto. Grazie intanto a Francesco Daveri, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.